cottura mista giapponese. Per realizzare occorrono le verdure, anche pesce. Le verdure tipo tempura e la frittura mista giapponese. Per realizzare occorrono le verdure, anche pesce. Le verdure tipo tempura e la frittura mista giapponese. Per realizzare occorrono le verdure, anche pesce. Le verdure tipo tempura e la frittura mista giapponese. Per realizzare occorrono le verdure, anche pesce. Le verdure tipo pomodori, cetrioli, melanzane, seppia e pomodori, cetrioli, melanzane, seppia e pomodori, cetrioli, melanzane. Per sentire la consistenza spugnosa dobbiamo fare piccola incisione così, e poi pomodori, cetrioli, melanzane. Per sentire la consistenza spugnosa dobbiamo fare piccola incisione così. Dobbiamo fare piccola incisione.